in primo piano. Giovedì 28 luglio, l'apertura dei quotidiani è dedicata per molti quotidiani sulla situazione economica e anche su queste su questa decisione delle parti sociali in campo contro il governo o comunque per stimolare un nuovo patto per la crescita. Vediamo i titoli. Il Sole 24 Ore, il piano UE non basta, torna l'allarme spread, così apre il Sole appunto in prima pagina. Per Repubblica, cambiare o l'Italia affonda, manifesto di Confindustria, sindacati e banche, ora discontinuità. Per La Stampa, patto per la crescita. Il Corriere della Sera lo mette in alto, imprese, banche, sindacati insieme, atto di discontinuità per crescere, però in realtà il titolo principale è così pagavamo le tangenti, i verbali contro penati, e dunque la vicenda che riguarda i dirigenti del Partito Democratico. Per Il Secolo XIX l'apertura, allarme generale, il governo cambi, e così Il Messaggero, appello contro la crisi. Libero il Giornale, e invece, che sono stati querelati dallo stesso Partito Democratico, titolano su questo: Bersani chiede il pizzo anche a noi, così è Libero, mentre il Giornale, il PD chiede soldi pure a noi. Il Fatto Quotidiano, palma alla giustizia, Previti brinda, è la nomina del nuovo guardasigilli, mentre per l'Unità il titolo è il PD dice basta con la foto di Bersani. Voglio partire da due piccoli commenti. Il primo è in prima pagina di Libero, di Filippo Facci, perché si dedica proprio al tema del nostro sondaggio. Breivik a Rebibbia. Questo è il titolo di appunto la rubrica di Filippo Facci oggi in prima pagina su Libero. Cioè, le nostre galere sono peggio di quelle di Caracas, con detenuti schiacciati in tuguri che si suicidano e che una volta usciti ricominciano tranquillamente a delinquere. Ma abbiamo anche il coraggio di fare ironia sulle carceri norvegesi, colpevoli di essere troppo belle, troppo civili, spaziose, con internet, la palestra, la TV a schermo piatto, ma producono solo quelle ormai, in una località circondata da 30 ettari di bosco, tutto in Norvegia è circondato da 30 ettari di bosco. Ma la pietra dello scandalo è che da quelle parti la pena massima è 21 anni. Nessuno però dice che il sistema norvegese è straordinariamente elastico, 21 anni è solo una base giuridica, ma una persona pericolosa, se necessario, la tengono dentro anche tutta la vita. Posto che Breivik passerà l'esistenza in un manicomio, fidatevi, in Norvegia distinguono da caso a caso, come è giusto, mica come da noi dove tutto è automatico e tra buona condotta, permessi premio, semilibertà e condizionale, vai a vedere come finisce. Che poi lo sappiamo come finisce. La percentuale di recidivi nei due anni successivi alla scarcerazione in Norvegia è del 20%. Da noi supera il 60%, ma siamo molto più ironici. Questo Filippo Facci, e insomma anche di questo discuteremo della pena alle 8:30. La seconda notizia la trovo in prima pagina del Riformista. Piccoli spaccati d'Italia. Sicilia, piccoli comuni crescono, una piccola storia ma di un piccolo comune, ma una grande storia esemplificativa di come funziona l'Italia. Di Salvo Fallica in prima pagina del Riformista: l'Italia stringe la cinghia e in Sicilia vogliono far nascere un nuovo comune. Si tratta di un'area che è una frazione, il cui territorio appartiene a diversi municipi vicini che sono Belpasso, Motta Sant'Anastasia e Campo Rotondo in provincia di Catania, e c'è la decisione di indire un referendum per la nascita di un nuovo comune che si chiamerebbe Piano Tavola. Una decisione presa dal governo regionale di Raffaele Lombardo. A Belpasso la decisione autonomista sembra non piacere, nemmeno agli autonomisti del Movimento per l'Autonomia, il Movimento di Lombardo. Stesso discorso a Motta, dove il fronte del no è guidato dal sindaco Giuffrida. La questione è complessa, tocca equilibri territoriali, nodi economici e sociali. Il sindaco, per esempio, di Belpasso ha seguito una linea con spirito bipartisan, adesso un decreto governativo che indice il referendum. L'assessore alla cultura di Motta, Vito Caruso, spiega che senso ha far nascere un nuovo comune mentre si discute di abolire le province. Già, aggiungo io e aggiungono tutti, appunto, che senso ha? Bella domanda. Vi è di più, al referendum dovrebbero votare solo gli abitanti della frazione e non tutti gli altri dei comuni interessati. Il punto è che il TAR, cioè hanno investito anche il TAR, ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dai comuni di Belpasso e Motta per l'indizione del referendum per l'autonomia di piano tavola, ma il sindaco di Belpasso è pronto a ricorrere al Consiglio di Giustizia Amministrativa. La battaglia investe anche il Parlamento regionale. Il deputato PD Barbagallo ha presentato un ordine del giorno in cui si denuncia l'illegittimità del referendum. In ogni caso, appare singolare che il presidente lombardo, che si definisce, autodefinisce riformista e riformatore, promuova nuovi comuni mentre propugna l'abolizione delle province. Ci sarà il nuovo fondamentale comune di piano tavola in provincia di Catania? Chi lo sa, intanto tra TAR, consigli, ricorsi, controricorsi, referendum indetti, qualcosa, magari qualche piccolo euro si sarà già speso. Alle 7:32 minuti, eccoci qua, allora a parlare della pagina politica. Intanto sono due le notizie principali, o meglio se volete tre, la vicenda del PD che coinvolge il PD, una vicenda che coinvolge invece l'inchiesta che coinvolge l'onorevole Milanese, di riflesso anche oggi sui giornali tante pagine dedicate alla questione del ministro Tremonti e della famosa casa in affitto, e poi anche le nomine dei nuovi ministri alla giustizia e alle politiche comunitarie. Allora, la questione Tremonti, l'affitto di Tremonti e le carte sugli appalti, così titola pagina 5 il Corriere della Sera. La vicenda è quella che vede indagato l'onorevole Marco Milanese, ex collaboratore di Tremonti. Tra l'altro Milanese oggi viene intervistato da Repubblica e tra poco vedremo che cosa dice. Beh, Fiorenza Sarzanini sul Corriere racconta le carte dell'inchiesta. Allora, c'è una dichiarazione di una persona indagata, un imprenditore, accusato di aver pagato il leasing della barca dell'onorevole Milanese con un sovrapprezzo in cambio di commesse dell'ENAV. Si tratta di Tommaso Di Lernia, che ha fatto delle dichiarazioni, ovviamente tutte da confermare, però certo hanno gettato nella bufera politica il ministro Tremonti. L'affitto dell'appartamento di via di Campo Marzio, occupato fino a qualche settimana fa dal ministro Tremonti, scrive il Corriere, sarebbe sempre stato pagato da Angelo Proietti, titolare della società Edilars, che lo aveva ristrutturato gratuitamente, aveva ottenuto appalti dalla Sogei. I soldi sarebbero stati consegnati a Marco Milanese, parlamentare PDL, ex consigliere politico dello stesso ministro, accusato di associazione a delinquere, corruzione, violazione di segreto. Tutto questo a raccontarlo appunto ai magistrati di Roma Tommaso Di Lernia, l'imprenditore arrestato con l'accusa di aver pagato il leasing della barca di Milanese con un sovrapprezzo di oltre 200.000 euro in cambio di commesse dell'ENAV. E poi dichiara che Tremonti avrebbe ceduto al ricatto del consulente di Finmeccanica Lorenzo Cola, che chiese e ottenne la conferma di Pianfrancesco Guarguaglini alla presidenza della holding. E poi insomma c'è questa vicenda appunto dell'affitto, la somma, ieri c'era sui giornali, di 4.000 euro che Tremonti avrebbe versato a Milanese, metà dell'affitto, per un totale di 75.000 euro per la casa dove appunto il ministro stesso dice ero ospite. Allora, eccolo qui, Marco Milanese intervistato da Repubblico. La Repubblica: ospite non voleva dire gratis. 8.500 euro per me solo erano troppi. Concita Sannino intervista l'onorevole Milanese, a pagina 9 di Repubblica risponde su tutto. Tremonti mi pagava in contanti. E allora? Allora, dottor Milanese, il ministro Tremonti è nella bufera. Emerge un dato: Tremonti ha detto ero ospite della sua casa. Ma che c'entra, risponde Milanese, ospite non significa a titolo gratuito. È accettabile, chiede Repubblica, che un ministro delle finanze paghi in contanti, in nero? Ma perché in nero, risponde Milanese, se lui mi avesse fatto un assegno mica ci avrei pagato un'imposta. In fondo il ministro riceve lo stipendio in contanti, non c'è niente di male, ecco perché l'ho detto. Quale segreto nasconde la casa? Nulla. Io ero separato, stavo a casa della mia compagna. Io ospito il ministro e lui mi restituisce una parte del canone abnorme, 8.500 euro. Volevo restare affittuario perché speravo di acquistare da inquilino a prezzo super conveniente. Ho giocato una partita, faccio un affare. Oppure va male. Amen. E anche sui lavori di ristrutturazione sono stati di 50.000 euro, non 200.000. Dicevo a Proietti, ti vuoi far pagare? e lui aspetta quando completeremo, perché in effetti dovevo fare altri lavori, perché l'accusa è questa, cioè di aver ristrutturato la casa da parte di Angelo Proietti e avere ottenuto in cambio degli appalti. E poi anche della famosa cena a casa del PM Capaldo con lui, Milanese, con Tremonti, col PM Capaldo, solo che Milanese era nel frattempo indagato da 2 giorni. Non so di cosa parli. Non sapevo nulla dell'inchiesta di Roma, di Napoli sì, dopo il servizio di Repubblica, ma a quel tavolo solo il procuratore e il ministro parlarono. Di cosa? Autori greci e latini, del fantasma della povertà nel paese. Io non parlai proprio. E poi alla fine, ma lei si assolverebbe, perché c'è la richiesta di arresto nei suoi confronti in Parlamento, devo andare in carcere perché mi piacevano le barche o la Ferrari, risponde Milanese. Perciò dico al Parlamento, autorizzate l'apertura delle cassette di sicurezza e l'accesso ai tabulati. Ho fiducia. Insomma, però la bufera politica c'è, barche, affitti, le accuse a Milanese, così anche il Sole 24 Ore a pagina 15, Simone Di Meo e Marco Ludovico raccontano, Marco Milanese, ex braccio destro di Tremonti, avrebbe fatto comprare la sua barca a Finmeccanica per garantire il rinnovo della nomina dell'amministratore delegato Guarguaglini, e Angelo Proietti sarebbe persona che allo stesso Milanese dà solo 10.000 euro al mese, per la stessa casa. Entrambe le affermazioni, tutte da dimostrare, sono state messe per iscritto in un memoriale l'11 luglio scorso dall'imprenditore Tommaso Di Lernia. Vabbè, è chiaro che c'è anche una bufera politica, inutile negarlo. Accuse al ministro, il PDL in imbarazzo, così titola il Corriere a pagina 6 per commentare queste vicende. Berlusconi, nel retroscena politico di Francesco Verderami, sceglie sia difeso ma dai PM e non politicamente. C'è un Tremonti che va difeso e un Tremonti che va condannato, un Tremonti da proteggere giudiziariamente e un Tremonti da isolare politicamente. Perché sarà pur vero che il ministro dell'economia è ormai in viso a quasi tutto il governo, la maggioranza, ma tutti sanno che le sue sorti incrociano quelle dell'esecutivo. Questo per Francesco Verderami è l'atteggiamento di Berlusconi, che se potesse sostituirebbe Tremonti con se stesso. Questa è una frase che viene attribuita al premier sia dal Corriere sia da Repubblica. Se si dimettesse, avrebbe detto ieri Berlusconi, andrei io al suo posto, tenendo l'interim della presidenza del Consiglio, tanto il vero centro del governo è l'economia. E comunque Giulio non lascerà. Non so se in questo modo vi ho tranquillizzato o vi ho inquietato. Insomma, lo snodo certo è la questione Tremonti. Anche Repubblica, Milanese 10.000 euro al mese per pagare la casa di Tremonti, ecco le rivelazioni dell'imprenditore di Lernia, tutto ovviamente da verificare, ma la polemica politica c'è con l'opposizione che dice chiarisca. Per la verità oggi c'è anche un editoriale in prima pagina del Corriere della Sera, firma Sergio Romano, quel che Tremonti non ha detto. Scrive Sergio Romano, i pagamenti in nero sono il male oscuro dell'economia nazionale. Quanti italiani possono affermare di non aver mai ceduto alla tentazione, magari per spese modeste, cose di poco conto? Quanti possono lanciare la prima pietra senza peccare di ipocrisia? Ma temo che il caso del ministro dell'economia, se i sospetti delle scorse ore sui pagamenti effettuati per l'affitto del suo appartamento romano avessero qualche fondamento, apparterebbe a questa categoria. Giulio Tremonti è stato il custode dei conti pubblici, il cane mastino della finanza nazionale, ma, scrive più avanti Romano, il caso del ministro che paga in nero per un appartamento, forse addirittura al centro di un'imbrogliata vicenda di favori e appalti, rischia di diventare l'arma preferita dei suoi avversari. Tremonti dovrebbe rompere la spirale dei sospetti e parlare con franchezza ai suoi connazionali. Lo faccia per se stesso, nell'interesse di un paese che soprattutto in questo momento ha bisogno di un ministro dell'economia serio e credibile. L'altra vicenda è quella del Partito Democratico. Partito Democratico che certamente è nella bufera. Bersani reagisce, l'Unità titola in prima pagina, com'è che titola con la foto di Bersani, il PD dice basta, lo sfogo di Bersani. E poi c'è questa cosa, penso a una class action, cioè qualcuno ha detto, ma sembrava all'inizio quasi una provocazione, e invece no. Anche l'onorevole Migliavacca, uno dei più, forse il più stretto collaboratore di Bersani, uno molto vicino a Bersani, ha detto no, ci sta pensando veramente. Cioè, pensare di fare una class action da parte di tutti gli iscritti al Partito Democratico nei confronti di chi? Della macchina del fango, dei giornali, quelli che ha definito Bersani la macchina del fango. Infatti ieri il Partito Democratico ha già dato mandato di querelare Libero e Il Giornale. Per la verità, anche sul Fatto Quotidiano, Barbara Spinelli, intervistata da Marco Travaglio a Pagina 3, dice: ma mi pare di assistere a un film horror berlusconiano con sottotitoli in sovietico. E oltre, che cosa colpisce di quell'annuncio di Bersani? Oltre e forse più ancora del merito dell'iniziativa, mi colpisce il linguaggio di Bersani, quell'insistere sulla macchina del fango, quale che sia lo scandalo che un giornale denuncia, quali che siano i reati scoperti dalla magistratura, quali che siano i giornali chiamati in causa e le loro proprietà. Insomma, Barbara Spinelli molto dura, ma anche il direttore Antonio Padellaro in prima pagina del Fatto fa un editoriale dal titolo «I ladri e le forze oscure». Dice: quando ieri ci ha scritto questa lettera, c'è stato un punto in cui abbiamo detto: diamine, questo è parlare chiaro da parte di Bersani. Quando ci è piaciuta quella frase finale, quando si è definito talmente provinciale e paesano da mettere il buon nome che ha ricevuto davanti a qualsiasi cosa e qualsiasi ruolo. E poi quando ci è giunta la notizia della class action annunciata dal medesimo segretario contro la macchina del fango, abbiamo pensato: ma che gli salta in mente a Bersani? Che diavolo c'entra la class action, uno strumento a difesa dei consumatori, con la lotta politica anche aspra? Ci siamo chiesti se è così che Bersani vuol difendere il buon nome del PD. Beh, si è tornati ai tempi delle forze oscure della reazione in agguato, che nel vecchio PC era comodo evocare per confondere le acque e mobilitare i compagni. Caro Bersani, sappia che questi giochini non funzionano più, scrive Padellaro. Lo schifo del berlusconismo non è una buona ragione per coprire altri schifi più democratici. Dia retta, nero o rosso che sia, un ladro è sempre un ladro. E insomma, e poi c'è il dibattito sulla questione morale. Si cimenta oggi Eugenio Scalfaro, un lungo editoriale di Repubblica, colui che intervistò Berlinguer, che tirò fuori la famosa questione morale in un'intervista di tanti, tanti anni fa. Libero e Il Giornale ovviamente titolano: Bersani chiede il pizzo anche a Libero, e la morale di Bersani: querele non risposte. Questo dal Giornale. E mentre il Corriere fa nuove rivelazioni delle carte, i verbali del costruttore Pasini, Giuseppe Pasini, Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella ne parlano a pagina 9. Quello di cui sono assolutamente certo, scandisce ai PM il costruttore Pasini, è che ho pagato 4 miliardi di lire in due tranche a Di Caterina, un altro imprenditore, all'estero, perché così mi era stato chiesto da Penati in relazione all'approvazione del piano regolatore dell'area Falc di Sesto San Giovanni. Pasini spiega di aver fatto a se stesso sul conto Pinocchio un bonifico in Lussemburgo su Banca Intesa, e poi ho ritirato in contanti 2 miliardi che la banca mi aveva già preparato in una valigetta, soldi dati a Di Caterina, non ricordo se venne ritirò personalmente o se su indicazione versai su un conto a lui riconducibile, tutto veicolati sulla Svizzera, perché ho un ricordo di un viaggio fatto in macchina con mio figlio Luca per andare a Chiasso o a Lugano. Poi dice: altre occasioni in cui su richiesta di Penati ho consegnato somme in contanti in Italia a Giordano Vimercati, che è stato poi capo gabinetto di Penati. Insomma, coperto da molti omissis, ma oggi il Corriere con Ferrarella e Guastella pubblica stralci del verbale di Pasini. In tutto questo marasma finisce un po' in secondo piano la nomina ministro della giustizia di Francesco Nitto Palma, ci sarà oggi il giuramento, la nomina alle politiche comunitarie del neo ministro Bernini, Anna Maria Bernini. E tutto in secondo piano, perché insomma queste polemiche politiche hanno prevalso. Come in secondo piano la notizia che sicuramente è ritornata alla ribalta, prima del traffico la do, pagina 4 della Stampa, in ampio risalto: il cavaliere Berlusconi medita, vuole cambiare il nome. D'altronde quel PDL, quell'acronimo Popolo della Libertà, dà fastidio. Nel sud Italia addirittura la declinano al femminile, la PDL. Questa cosa pare faccia imbufalire Berlusconi. Al nord invece lo chiamano il PDL, d'altronde il Popolo della Libertà, il PDL, ma al sud la PDL. Questo vuol dire che non gli piace, bisogna cambiare nome, ma attenzione, perché il cavaliere medita. La creatura politica più amata alla quale voglio tornare è forse il nome vecchio, Forza Italia. Tra l'altro, a proposito di ministeri, il Quotidiano Nazionale è andato a vedere, ormai è un po' il gioco giornalistico del giorno, a Villareale, a Monza, per vedere, ma questi ministeri, uffici decentrati della Lega, ma che c'è in questi ministeri? Non si capisce, delle scrivanie. Ma... A Monza resta solo il sigaro spento di Bossi, non è una battuta, ci hanno fotografato, c'è la foto sul Quotidiano Nazionale di una bottiglia di champagne vuota buttata lì sul selciato di Villareale, in uno scenario tra l'altro straordinario, Villareale a Monza. Però stona un po', e quel sigaro smozzicato, segno del passaggio del ministro Umberto Bossi. Tra l'altro c'è questo giallo perché Galan, il ministro Galan, che è titolare dei beni culturali, che ha osteggiato, definendola anche, credo, una puttanata intercontinentale questa dei ministeri, ha detto: io non ho firmato nulla, non concederò la destinazione d'uso di Villareale per questa cosa, non intendo farlo, non ho firmato nessuna carta di concessione e non penso che lo farò. Sono d'accordo con Napolitano. Insomma, questa dei ministeri o degli uffici decentrati dei ministeri è un po' il giallo, no? Giallo estivo, dove sono finiti gli uffici decentrati voluti fortemente dalla Lega. Mentre, vabbè, voglio andare sulla questione economica. È stata una pessima giornata per le borse. Milano guida al ribasso delle borse, con Piazza Affari che perde il 2,81%, Wall Street cede il 2%, così titola pagina 3 Il Sole 24 Ore. E tra l'altro ci si concentra anche sullo spread che c'è stato, perché torna l'allarme spread tra i BTP e i bund decennali, è risalito fino a 313 punti base. Questo è un segno, sempre un indice di debolezza del sistema Italia. E poi lo sguardo anche su quello che sta succedendo in America. I repubblicani litigano sul default, ormai, come racconta Daniela Roveda, pagina 8, mancano 5 giorni, 4 ore, 30 minuti, 12 secondi, 11, 10, 9, 8. È così, ormai ci sono cronometri, le radio, le TV scandiscono questa data, questo tempo che scorre, e il 2 agosto si avvicina, perché il 2 agosto è la data che nella quale repubblicani e democratici si mettono d'accordo sul debito, oppure il 2 agosto si rischia, appunto, il sistema Stati Uniti rischia il default, con tutte le ricadute sull'economia che oggi vengono spiegate, appunto, le possibili, i tre scenari: se c'è l'accordo, se c'è un downgrade, se c'è, oppure nell'ipotesi peggiore, un default. Tutto viene spiegato a pagina 8 del Sole 24 Ore di quello che succede. In Italia invece, come racconta Nicoletta Picchio sul Sole a pagina 11, ma molti giornali, come detto, ci aprono, si è parlato, le parti sociali si sono trovate e hanno chiesto una discontinuità e responsabilità per recuperare credibilità sui mercati. Subito un patto per la crescita dell'Italia, così titola pagina 11 Il Sole. C'è anche un'intervista invece sul Corriere della Sera al leader della CISL, Bonanni, che dice a Marco Imarisio: è peggio del 92, siamo messi peggio, c'è il rischio concreto di trovarci in una situazione ancora più seria, basta guardarsi intorno. Sicuramente vedo in giro poca consapevolezza, balliamo sul Titanic, servono sforzi straordinari, ma tutti fanno finta di niente, a cominciare dai costi della politica. La manovra l'abbiamo criticata perché si è fermata sulla soglia dei costi alla politica. Un documento eloquente, il primo esempio per convincere l'Italia a stringere la cinghia è quello di ridurre il costo della politica, e chi mi accusa di demagogia dico: pazienza. Così Raffaele Bonanni. Io vorrei fare adesso aprire una parentesi su una questione, un fatto di cronaca che è un po' sottovalutato, ma in realtà ha sconvolto tutti, non solo a Milano ma in tutta Italia, anche perché c'è un altro episodio simile. Beh, a Milano una banale lite tra un motociclista e un automobilista, un incrocio del semaforo, è degenerata con, secondo le versioni dei testimoni oculari, l'automobilista 71 anni che ha rincorso questo motociclista, l'ha travolto, secondo i testimoni gli ha addirittura ripassato sopra, ha cercato anche di investire dei testimoni, poi fuggito, è stato arrestato, ovviamente il motociclista è morto. Una vicenda davvero che ha sconvolto oggi sul Corriere la decisione del giudice, nonostante questo automobilista abbia 71 anni, ha superato i 70 anni, ha deciso di mantenerlo in carcere. È pericoloso e dunque il pensionato killer resta in carcere. A fianco c'è un'altra notizia sul Corriere, ma non solo sul Corriere, anche sul Messaggero c'è mezza pagina, pagina 14. Bloccato in coda, accelera e travolge 10 persone. È successo a Cascina, in provincia di Pisa. Ha rischiato il linciaggio un muratore albanese di 24 anni, indispettito per un ingorgo creato dalle persone che stavano assistendo a una sagra paesana. Dopo aver detto spostatevi o vi ammazzo tutti, ha deciso di partire. È partito, ha travolto diverse persone. Un ragazzino è stato trascinato per 30 metri e poi la persona è andata via come se nulla fosse. Questo ragazzino ha rischiato la vita, è stato operato, pare che sia adesso fuori dal rischio, dal pericolo di morire, ma insomma, che sta succedendo? Voglio dire, i litigi ci sono sempre, no? Ai semafori, magari una parola di troppo, ma alcuni episodi che spingono. Marina Corradi, oggi in prima pagina dell'Avvenire, a scrivere un editoriale nel quale vi vorrei leggere alcuni passi. Quando cede l'argine? Fino a un momento prima di arrivare a quel semaforo, il ragionier VP, viene identificato con le iniziali, credeva ad essere un uomo tranquillo, 71 anni, dirigente in pensione, nessun precedente penale. Che cosa in un pomeriggio di luglio ha scatenato in lui una furia tale da spingerlo a inseguire e travolgere un motociclista, uccidendolo, solo per una lite su una precedenza non data? Le testimonianze concordano, volontariamente l'auto è passata sopra il ragazzo già a terra, e tutto in pochi istanti, una frenata, un insulto, uno sputo in faccia al vecchio, una rabbia che monta improvvisa, feroce, come dal nulla. Restiamo attoniti davanti a queste tragedie, perché accadono tra gente fino a quel giorno inoffensiva, per un nulla, una parola come ne vengono dette tante, senza che poi ne muoia nessuno. Cos'è? Ci domandiamo stupefatti, si chiede Marina Corradi. E da dove viene questa oscura cosa che insorge, acceca uomini tranquilli? Guardiamoci per la strada, sull'autobus, in una sala d'attesa. Non c'è nell'aria tra molti di noi come un'amarezza muta, un confuso malanimo verso tutti e nessuno, come una delusione, come se la vita non avesse mantenuto le promesse, se si fosse stati ingannati, come se gli altri attorno, da chi ci governa al capufficio, al vicino rumoroso, fossero insieme i responsabili di un'oppressione che schiaccia. E in questa frustrazione un rancore silenzioso si allarga. In mille restano arrabbiati ma civili. Uno a un semaforo, insultato, scatta. È un attimo, è il cerino nella paglia, la provocazione che infiamma quel fondo contenuto di rabbia. Perché davvero sempre più spesso? Perché? Siamo forse più poveri e infelici di 50 anni fa? No. Siamo però molto meno educati a riconoscere, dentro l'amarezza per l'egoismo, l'indifferenza, la solitudine che avvertiamo attorno, la nostra personale responsabilità. Nelle parole su un tram di Milano, di Roma, cogli la stanchezza, i potenti rubano, le tasse opprimono, i medici sbagliano, i figli abbandonano. Mai però l'eco di una coscienza in cui si riconosca che noi non siamo innocenti, che il male non è solo quello degli altri, ma anche il nostro. Insomma, a me ha fatto molto riflettere questo episodio, questi episodi di cronaca. Poi, vivendo in una città come Milano, se ne vedono tutti i giorni. Quando cede l'argine, questo è Marina Corradi, su prima pagina di Avvenire. Che dire, abbiamo finito? Sì.